Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di un libro che nel titolo riecheggia un po' molte cose che sono avvenute negli ultimi mesi. Il titolo è Avanti Italia. L'autore è Francis Morandi, ve lo presento tra poco, ma immediatamente gli chiedo perché Avanti Italia. Sembra un po' di riecheggiare, come dicevo, Salva Italia, Sciogli Italia. È un invito, un manifesto per il governo. È un libro in positivo, avanti, perché malgrado la situazione italiana in questo momento sia abbastanza pesante, cerca di dare una serie di suggerimenti in positivo in vari settori per poter migliorare il nostro posizionamento nel contesto internazionale. Direi che la cosa importante è anche il sottotitolo, che vincere la sfida con i politecnici. Perché vincere la sfida, appunto, c'è questa voglia di recuperare certe posizioni, e i politecnici perché è un concetto per me molto importante, perché non concepisco la contrapposizione oggi molto diffusa tra politici e tecnici. Ecco, politecnici è scritto con la T maiuscola, non solo con la P maiuscola. Vi presento allora Francis Morandi, consulente d'impresa, ha lavorato in CES Manhattan Bank e la Borsa di Johannesburg, ha una visione internazionale dei temi, ha concorso alla realizzazione di tre mercati immobiliari, alla costituzione ovviamente di alcune banche e società, collabora con alcune business school e con questo libro, edito dal gruppo del Sole 24 Ore, ha messo insieme tutta una serie, diciamo così, quasi enciclopedica, come dice Pietro Modiano, presidente di Novisa, nella prefazione, una serie enciclopedica delle cose da fare, delle cose che sarebbero utili al nostro paese per intervenire, per cercare di affrontare una situazione mettendo a frutto le grandi potenzialità del paese e sciogliendo gli altrettanti grandi nodi che questo paese si trova ad avere di fronte. Allora torniamo al sottotitolo, i politecnici, che non sono solo i politecnici delle università. Cosa intende Francis Morandi per politecnici? È un neologismo con cui identifico il buon politico. Il buon politico non può sapere solo di politica, ma deve sapere molto bene anche del contenuto delle materie, dei settori che deve amministrare, quindi deve avere delle competenze dimostrate, specifiche, e possibilmente nella parola politecnico c'è anche l'anagramma di etico, insomma, per cui politico oggi deve essere molto preparato, direi quasi curricularmente preparato. Ecco, c'è un po' di critica verso una classe politica passata che era molto politica, poco tecnica e altrettanto poco etica. Io ho scritto questo libro già parecchi mesi or sono, e con molto piacere vedo l'avvento di politici molto più tecnici in questo momento al governo, e da loro mi aspetto che impostino soluzioni coerenti con le necessità del paese. Ecco, proprio per questo hanno lasciato i politici un'eredità abbastanza grande e grave, e partendo magari proprio dai costi della politica. In Italia la politica ha un costo forte, enorme ed eccessivo. Sì, in Italia abbiamo circa 1.200.000 persone che direttamente o indirettamente vivono di politica, per un costo complessivo che io ho quantificato in circa 22 miliardi, però altri ne hanno quantificato addirittura in 23 miliardi e mezzo, corrispondenti sostanzialmente al 12% del gettito dell'IRPEF. Quindi la politica costa, chiediamoci. Ecco, un parte di questo costo è doveroso, perché comunque la politica è necessaria in un paese, parte di questo costo invece fa parte di uno spreco, perché le strutture anche amministrative italiane sono un po' pletoriche. Da dove comincerebbe? Abolendo le province, i piccoli comuni? Le province, i piccoli comuni, abbiamo 8.096 comuni, ma soprattutto diminuendo le cariche, quindi gli assessori, i consiglieri, perché una diminuzione di essi sicuramente non impatterebbe nell'ambito delle decisioni che possono prendere. Diminuirei quantitativamente, migliorerei se possibile qualitativamente. Quindi anche molte strutture, i doppi incarichi, le doppie prebende, le commissioni, le consulenze, le autorità. Tutti gli enti territoriali che sono diventati quasi 7.000, bisogna veramente fare un ripulisti, con una visione strategica ovviamente, non tagliare per tagliare, ma tagliare, come è scritto nel libro, con certe impostazioni, ad esempio centralizzando a livello magari regionale tante cose. Quindi ecco, una risistemazione dello Stato, cercando di fare uno Stato più efficiente che possa favorire anche l'iniziativa dei cittadini. Ecco, uno dei temi di cui si parla, per esempio, è quello di una giustizia che non funziona, di uno Stato appunto che non riesce a svolgere in pieno le proprie competenze. Questo ci vuole un po' più di tecnica nella politica. Abbiamo circa 4 milioni di statali, se poi comprendessimo anche ex statali, tipo i postini, tipo i ferrovieri, via dicendo, arriviamo a un numero che è quasi di 1 milione superiore. E abbiamo in molti casi dei eccessi, non so, neanche nel numero dei magistrati piuttosto che nel numero dei poliziotti carabinieri. Un poliziotto carabiniero ogni 190 abitanti, che è quasi un record mondiale, quando altre nazioni, nel libro ci sono dei confronti. Cerco di fare spesso dei confronti con stati esteri, perché questo ritengo che sia molto utile per tutti noi e perché certe idee magari circolino. Ecco, questo libro è denso proprio di fatti, numeri, come dice Emiliano dell'introduzione. È un libro che confronta proposte e soluzioni in modo sistematico e ragionevole. Ecco, i temi sono molti, non si possono affrontare tutti. Direi forse uno dei temi che toccano da vicino anche ogni cittadino è quello dell'energia. Si paga molto per l'energia, abbiamo appena avuto un aumento delle bollette, la benzina è a livelli record come prezzo. In tutta Europa gli italiani pagano la benzina più cara, sia per le tasse sia per altri fattori. È possibile intervenire per rendere più efficiente la catena energetica e quindi per ridurre anche i costi? Importiamo l'85% dell'energia globale, compresa quella di trazione, che utilizziamo, e la paghiamo il 29,6% in più rispetto alla media europea. Questo è un vero problema. Nel libro ci sono delle indicazioni anche in termini di soluzioni, produzioni alternative, non tanto basate sul fotovoltaico e su certe fonti rinnovabili che l'attuale tecnologia non permette, secondo esperti, di superare il 7% del fabbisogno, mentre abbiamo ad esempio delle agevolazioni molto alte che incidono sul 4% della bolletta energetica che paghiamo. Questo per quanto riguarda la produzione di energia. La benzina, pochi sanno che prima che entri nei nostri serbatoi è stata compravenduta 34 volte. Il prezzo della benzina che è pubblicato è un prezzo di un future, non di una transazione spot, che ovviamente non è molto diverso, però è una delle cose che dobbiamo assolutamente fare, è controllare questi pricing, considerando inoltre che il trasporto, che per buona parte è su gomma in Italia, incide esso stesso nella misura di quasi il 4,2% in più rispetto alla media europea. Ecco, questi elementi dimostrano che per gestire una realtà come questa la politica deve veramente sposarsi con la tecnica, cioè avere la competenza di capire come funzionano i mercati e cercare di intervenire in una logica di bene comune, quindi una cultura comune anche di cercare di fare uno Stato che risponda alle esigenze dei cittadini. Ci sono in questo libro anche alcune proposte concrete. Una proposta è quella dell'anno dedicato alla Repubblica? L'anno per la Repubblica, dove i nostri giovani, maschi e femmine, potrebbero mettere a disposizione 12 mesi o comunque un certo numero di mesi a beneficio di tutti, ma soprattutto di loro stessi, perché se gestiti adeguatamente potrebbero anche imparare un lavoro. Uno dei problemi che vedo è che diamo sempre colpa alla Cina, però spesso e volentieri i problemi nascono in casa nostra, e la scarsa disponibilità dei giovani a fare lavori anche manuali, a fare lavori operativi, scegliendo magari anche università o studi molto probabilmente non adeguati rispetto alle esigenze della nazione, porta loro a vivacchiare. Non voglio parlare di bamboccioni come ha fatto una persona ben più illustre di me, però il problema dei giovani è un problema vero. Ecco, quindi c'è stato il servizio militare che a suo tempo ha un po' unificato il paese, che portava i giovani a viaggiare, a iniziare a viaggiare. Lei propone un servizio civile molto concreto, non solo di assistenza ma anche di inserimento sociale complessivo. Sì, fatto nella propria città ovviamente, lo Stato non si deve far carico magari di pernottamenti, di caserme e via dicendo, ma attraverso una delivery unit specifica dovrebbe poter gestire questi giovani per finalizzarli rispetto alle esigenze, quindi riducendo il debito pubblico, perché potrebbero fare molti lavori che oggi invece vengono fatti a costi molto maggiori da stipendiati, e soprattutto far crescere i giovani. Ecco, lei ha vissuto molto all'estero. Qual è il problema maggiore che dall'estero viene visto in Italia? Che cosa l'Italia potrebbe fare, proprio molto sinteticamente, per migliorare la propria immagine, che è già molto buona? In Made in Italy è già un'immagine molto buona all'estero. Assolutamente. Direi che ci vedono molto statici. Come scrivo nel libro, purtroppo non bastano due o tre interventi sulle pensioni, sul lavoro, ma molto probabilmente dobbiamo intervenire su un arco molto più ampio, che va dal turismo, dove siamo scesi quasi del 2% negli ultimi anni, che va dalla giustizia, che è fondamentale, al fisco, per recuperare. È tutta una serie di interventi urgenti, tali per cui serve proprio da parte dei politici una specifica competenza, e direi che non basta in fondo neanche quello. Nel libro suggerisco anche un esperimento che è stato fatto da Tony Blair in Inghilterra, che è stata la Delivery Unit, che è stata uno dei motivi del successo di quel governo. Ho parlato con i responsabili inglesi di questa Delivery Unit, perché spesso abbiamo in Italia delle leggi, delle disposizioni anche accettabili, però poi il deployment delle stesse diventa difficilissimo. Questa Delivery Unit la vedo fondamentale. Quindi lei vede un grande compito anche molto lungo per un governo tecnico politico. Sì, penso che ci vogliano 4-5 anni, non bastano pochi mesi per recuperare qualcosa, insomma. Grazie Francis Morandi. Allora, Avanti Italia, questo è il titolo del libro, Vincere la sfida con i politecnici, edito dal gruppo del Sole 24 Ore. Sono 28 euro di costo, ma sono ben spesi, perché è un'enciclopedia sulle cose da fare. Dovrebbero leggerlo soprattutto chi le cose deve farle. Sono 420 pagine, lo ricordo appunto, Francis Morandi, Avanti Italia. Grazie di essere stato con noi questa sera, l'appuntamento con i nostri ascoltatori è per sabato prossimo. Ringrazio Luca Cremonese in redazione, Peter Bascapè in regia.